Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, una visita ti salva la vista. Questo sarà un po' il leitmotiv della nostra puntata, interamente dedicata alla salute dei nostri occhi, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra oggi, secondo giovedì del mese di ottobre. Quindi noi torneremo a parlare di prevenzione e di cura, soprattutto dell'importanza dei controlli, dei tempi in cui farli, e parleremo anche di ricerca. Lo faremo con tanti ospiti e il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare, occuparsi della vista ancora prima di avere problemi di vista. Di solito andiamo a farci controllare la vista quando ci sembra di vedere meno, quando magari sentiamo che qualcosa non funziona, non ci fa vedere per esattamente. Ecco, bisognerebbe andare a sottoporsi a dei controlli anche in assenza di sintomi, perché il 75% della cecità nel mondo è evitabile. È vero che in quest'ultimo periodo si assiste ad un aumento di malattie oculari, anche perché la vita media della popolazione aumenta, ma se parliamo di glaucoma, distacco della retina, degenerazione maculare proprio legata all'età, dobbiamo sapere che sono malattie che possono essere diagnosticate per tempo e quindi possono essere affrontate con le cure opportune. Se volete intervenire, 824 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione. Abbiamo Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. La giornata mondiale di oggi focalizza l'attenzione sulle patologie visive che colpiscono la popolazione mondiale più anziana. Nel nostro paese invece la giornata è un'occasione per parlare di un'importante malattia oculare, il glaucoma, un ladro silenzioso, così viene chiamato, perché al suo esordio non dà sintomi, che è capace proprio come un ladro di rubare la vista e quindi rendere ciechi. A questa malattia dedicheremo ampio spazio nel corso della nostra trasmissione. In studio con me ho il dottor Antonio Scialdone. Buongiorno dottore, grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Dottore, iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. Che cos'è il glaucoma? Il glaucoma è un danno al nervo ottico causato principalmente da uno squilibrio tra la pressione dell'occhio e quello che la pressione reale è quella che il nervo ottico può sopportare. Quando la pressione supera il limite di sopportazione, che può essere leggermente diverso da persona a persona, lentamente il nervo ottico si danneggia e questo danneggia la vista. Quindi ovviamente Non abbiamo solo la pressione arteriosa, ma c'è anche una pressione all'interno del nostro occhio. Certo, esattamente come una gomma di bicicletta o un pallone da baseball, ha una sua pressione interna. Il glaucoma però rientra, direi, mi corregga se sbaglio, in maniera perfetta tra le forme che traggono massimo vantaggio dalla prevenzione secondaria, intendendo per prevenzione secondaria la diagnosi precoce, quindi individuare la malattia quando non ci sono ancora troppi i sintomi danni. E non soprattutto i danni. Non ci sono troppi danni, perché non si torna indietro purtroppo. Il glaucoma è una malattia irreversibile? È irreversibile esattamente come il diabete, la posso curare ma non la posso guarire. Quindi, parola d'ordine, controlli, non perdiamo tempo, troviamolo. E la IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in collaborazione con le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi, ci mettono a disposizione in 36 città italiane oculisti pronti a misurare gratuitamente la pressione oculare, che, come il dottor Scialdone ci ha spiegato, è un po' l'esame, no? Principe. Esatto, è l'indicatore principale di come stanno andando o potrebbero andare le cose. In linea con noi abbiamo l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente della sezione italiana dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Avvocato, una visita ti salva la vista. Oggi prende il via proprio questa campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e la diagnosi precoce del glaucoma. Una malattia, tra l'altro, avvocato, dei grandi numeri. Sì, in Italia almeno così ci danno le organizzazioni scientifiche e anche a campione, quello che abbiamo fatto noi come agenzia, abbiamo 800.000 persone affette da glaucoma. Abbiamo anche rilevato che circa 35.000 persone hanno perduto la vista purtroppo a causa del glaucoma. Quindi si vede, come diceva l'ottimo professore, che il glaucoma è una malattia purtroppo certe volte anche asintomatica, cioè non dà assolutamente nessun preavviso. L'unico preavviso è l'intelligenza, la cautela del cittadino che deve andare dall'oculista a farsi visitare, a farsi controllare il tono della pressione dell'occhio e verificare se si intravede qualche cosa di questa brutta purtroppo malattia. Avvocato, però noi possiamo anche invitare gli ascoltatori di Radio 24 a sottoporsi dei controlli, perché c'è la possibilità di farlo. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità insieme all'Unione Cieca mette a disposizione dei gazebo dove possiamo recarci e sottoporci a questo controllo. Sì, abbiamo fatto proprio questa iniziativa per dare la possibilità ai cittadini in 36 città italiane. Oggi chiunque può recarsi presso questi gazebo possono ricevere una visita, sottoporsi ad una visita oculistica. Questi oculisti sono in possesso anche di eltonometro, cioè di questo apparecchio particolare che misura la tensione e la pressione dell'occhio, e quindi avere un responso se sono esposti a questa malattia o meno. Oppure no. Allora, il calendario. Dottor Cialdone, voleva intervenire, avvocato Castronovo. Volevo dare una mano all'avvocato in questo senso. Poi ci mancherebbe. Lei ha detto 30.000 persone che possono aver perso la vista, giustamente, ma per dare una sensibilizzazione di più, se io dico che il 2-2,5% della popolazione italiana è a rischio, vuol dire che ci sono in circolazione 1,5 milioni, 2 milioni di persone che magari hanno la pressione alta e non lo sanno. Quindi la probabilità, come dire, l'attenzione deve essere maggiore. Non è una cosa casuale che capita a pochi, l'incidente sul traffico, il mattone che mi arriva dal tetto, ma è una cosa a cui fare attenzione, diciamo. Problema sociale, ecco. È un problema sociale. Avvocato, voglio ricordare ai nostri amici da casa che il calendario degli appuntamenti possono trovarlo sul sito della IAPB. Se non potete, telefonando al numero verde, bravo, della nostra... Se per chi non potesse andare su internet, la IAPB come sempre mette a disposizione il numero verde, che è sempre attivo, non solo in occasione di oggi, ne l'abbiamo ricordato più tutto volte l'anno. Tutto l'anno, oculisti a disposizione, 800 06 8506. Naturalmente potete contattare anche le sezioni locali dell'Unione Italiana dei Perfetto. Ciechi e degli Ipovedenti. Avvocato, sto andando bene? E possiamo dire che sulla pagina di Essere Benessere, comunque Radio 24 sta seguendo come sempre questa giornata attraverso programmi eccetera, per cui anche sul nostro sito troverete tutte le indicazioni necessarie per non perdere tempo, per trovarle e andarvi a fare dei controlli. Avvocato, la ringrazio, l'abbraccio e la saluto. Anch'io. Grazie a questa brava giornalista, Radio 24, che è la migliore radio d'Italia. Grazie, avvocato Castronovo, ci prendiamo i complimenti, buona giornata. Grazie altrettanto, buongiorno. Dottor Cialdone, fattori di rischio per il glaucoma, c'è un'età, 35-40 anni, in cui noi siamo più a rischio, ma è solo l'età o c'è dell'altro? Innanzitutto bisogna scegliersi bene i genitori, perché sì, uno dei motivi principali di glaucoma è la trasmissione genetica, che non è necessariamente diretta e immediata, cioè non è detto che se i miei genitori non ce l'hanno io non possa averlo. Sì. Sicuramente se ce l'ho sono più a rischio, ma la mescolanza dei geni fra le generazioni, fra le popolazioni, rende fa le cose sua. Più confuse. Questo è certamente, e siccome noi non possiamo sapere, ecco perché è obbligatorio, a mio avviso, dopo i 40, chiunque è meglio che, oltre a farsi fare gli occhiali per leggere, perché magari sta diventando presbite, pensi al problema della pressione del glaucoma. Una volta che vado dall'oculista, una volta mi misura la pressione, sono tranquillo, probabilmente per Senta, il resto. Senta, secondo lei anche tra gli oculisti c'è questa attenzione? Misurano durante la visita la pressione oculare? Oppure, perché sa che tante, io parlando ad esempio di ipertensione arteriosa, molto spesso i miei ascoltatori mi scrivono dicendo lei dice di farsi misurare la pressione, ma i medici non sempre la misurano, bisogna chiederlo. Succede così anche per gli oculisti? Ammesso che succeda, io riporto quello che i miei amici da casa mi scrivono. Certo, ma guardi, nel mondo tutto può succedere, però è un controllo di routine. È un controllo di routine che chiunque che abbia visto o non abbia visto una persona in precedenza fa, secondo me, nel 99, fra l'altro approfitto dell'occasione per dire che certamente non perché faccio l'oculista, anzi, perché lo faccio. Gli oculisti italiani sono fra i migliori del mondo. Wow, questo non c'è alcun dubbio che siamo in buone mani. Siamo in ottime mani e abbiamo un problema che poi adesso non voglio rubare troppo tempo, che è quello della ricerca, con alcune lodevolissime eccezioni, come sentiremo oggi dal professor Auricchio in termine eccetera, ma diciamo nella massa purtroppo, come molti istituzioni italiane, abbiamo problemi di finanziamenti con la ricerca, ma dal punto di vista clinico dell'assistenza siamo fra i migliori categorie al mondo. Allora, professore, proviamo a dire la persona potenzialmente a rischio, una persona che non si è scelta i genitori con attenzione, ma quello inizia ad avere un'età compresa tra i 35 e i 45 anni, l'età in cui si manifesta la presbiopia. Altre caratteristiche in modo che i nostri ascoltatori da casa possano essere sensibilizzati, magari si riconoscono nella descrizione che lei fa del nostro diciamo che profilo di certo. rischio, insomma. Allora, l'età media l'abbiamo detta, sicuramente la miopia. Sì. E la miopia da una parte e l'ipermetropia forte dall'altra, sono due cose, due poli opposti, sì, della stessa cosa. Se posso, categorie particolari potrebbero essere quelli che fanno i subacquei. Quindi ipermetropi forti, miopi forti, chi ha un caso in famiglia, subacquei. È vero che esegue anche esercizi ginnici poco corretti sotto sforzo, come mi scrive un ascoltatore, Mario? Ma se uno è predisposto, sì, ma in generale direi, sa chi cosa? Chi fa yoga? Yoga, certi esercizi a testa in giù, adesso non so come si chiama l'esercizio, è provato che aumenta la pressione in modo, diciamo, per diverse ore dopo l'esercizio, per cui chi fosse predisposto e non lo sa si trova a correre un rischio doppio. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde se volete intervenire, come sempre il 349 238 6666. Intanto noi continuiamo ad occuparci dei nostri occhi, lo facciamo sottolineando i progressi che la medicina ha fatto negli ultimi tempi nella cura di malattie oculari. Come il professor Cialdone sottolineava, gli oculisti italiani sono veramente un fiore all'occhiello, siamo in ottime mani, approfittiamone. Seguiamo un po' l'anatomia del nostro occhio, iniziamo dalla cornea. In linea con noi abbiamo il dottor Claudio Genisi, che è responsabile della divisione oculistica all'ospedale San Camillo di Treviso. Buongiorno dottore. Buongiorno dottoressa Carbone. Dottore, facciamo più volentieri i controlli se sappiamo che, individuando precocemente eventuali problemi, voi oculisti siete poi capaci di curarli meglio. Beh certo, ecco. Sicuramente per quanto riguarda la cornea il controllo va fatto con uno strumento che si chiama biomicroscopio, in cui la cornea può essere esaminata almeno per quanto riguarda la sua trasparenza, e poi esistono per fortuna da diversi anni degli strumenti estremamente sofisticati che ci possono dare anche indicazioni sulla forma della cornea e quindi su eventuali deformazioni della cornea. Dottor Genisi, che segnali dà una cornea sofferente, una cornea che magari per malattia non riesce più a svolgere in modo adeguato la sua funzione? Partendo dal concetto che tutti sanno probabilmente che la cornea è la prima lente che noi abbiamo davanti all'occhio attraverso la quale passano le immagini, rapportiamo questa lente al fatto che questa può essere più o meno trasparente e deve essere perfettamente trasparente per poter vederci attraverso bene, e poi deve essere regolare nella sua curvatura perché è una lente. Quindi se manca di trasparenza più o meno accentuata avremo come sintomo l'annebbiamento visivo, che deve quindi farsi drizzare le antenne, diciamo, e farsi andare dall'oculista, e dell'altra cosa la deformazione molte volte dell'immagine, che ci dà annebbiamento, diciamo, l'avviso che la cornea potrebbe avere una forma scorretta. Non corretta. Annebbiamento e deformazione. Dottor Genisi, c'è una malattia che può colpire la nostra cornea, si chiama cheratocono. Sì, direi, per dare un esempio, riaccentrato il problema, i numeri, l'80% dei trapianti di cornea si effettuano su una malattia che si chiama appunto cheratocono. Questa malattia, in poche parole, è una deformazione della cornea, della parte centro-paracentrale inferiore, in cui la cornea si sfianca per colpa di un assottigliamento della cornea e quindi sfiancandosi si deforma e il paziente piano piano, in maniera progressiva, perde la capacità di distinguere perfettamente le immagini. Claudio, sono Antonio, ciao. Ciao. Senti, ma diamolo agli ascoltatori, quanti sono i trapianti di cornea in Italia ogni anno? Dai dati delle banche delle cornee si parla di 4-5 mila trapianti all'anno, quindi un numero piuttosto consistente dopo tutto. Quindi una malattia rara ma non troppo. E come accennavi prima tu, anche se non mi è stato chiesto, diciamo. Sì, ma lei può parlare anche senza essere interrogato. Senta, dottor Genisi, adesso lei faceva riferimento al trapianto. Adesso non c'è più solo trapianto, cosa c'è, in quali casi? Così poi passiamo al cristallino. Ma guardi, per dare un messaggio di speranza a questa malattia che aveva come unica soluzione, il cheratocono aveva come unica soluzione il trapianto di cornea nelle sue varie forme, da 3 anni a questa parte, ed è appena uscito, diciamo, dalla fase cosiddetta sperimentale, il messaggio di speranza è che probabilmente abbiamo trovato il sistema per fermare questa malattia e quindi non farla arrivare al trapianto, e addirittura di migliorare la qualità visiva in un'alta percentuale di casi con una procedura, chiamiamola parachirurgica, in senso che è un intervento di tipo ambulatoriale con un'anestesia con gocce di collirio, per capirci, e che si chiama cross-linking. Sì. In poche parole cos'è? Si usa una sostanza che è la riboflavina, sì. In poche parole sempre è la banale vitamina B2. Sì. Questa sostanza viene diluita sull'occhio, sulla cornea del paziente, mettiamo, mi passi l'espressione, mettiamo a bagnomaria l'occhio in questa sostanza per circa una ventina di minuti. Dopodiché passiamo il paziente sotto uno strumento laser ad ultravioletti e questo strumento ha la funzione di catalizzare, di fissare questa sostanza nell'interno della cornea. Il risultato qual è? Che le fibre della cornea che nella malattia cheratocono tendono ad assottigliarsi e a diradarsi vengono un po' più robuste, ingessate, come? E più grosse, vengono ingessate e addirittura si retraggono un po', e ritraendosi diminuisce la deformazione della cornea, quindi non solo ferma una malattia, ma e qualche volta addirittura migliora la vista. Dottor Qual è Genisi, l'unico punto interrogativo? Sì, l'ultima cosa è obiettivamente che è una terapia nuova e quindi non sappiamo la durata di questo effetto. Ma noi vi daremo naturalmente anche nel corso di altre puntate, torneremo a parlare di cheratocono per capire quando questo intervento, lei l'ha chiamato un intervento? No. Parachirurgico è indicato in quali casi? Per il momento la ringrazio, dottor Genisi, e sì, grazie a lei per aver partecipato alla nostra trasmissione dedicata proprio a tutta la giornata mondiale della vista. Grazie, dottor Genisi. Grazie a lei, saluto dottor Sceldone. Ciao. E noi andiamo a parlare di cristallino. Si trova esattamente, dottor Sceldone, dato dunque, che lei è qui. Abbiamo facciamo la un cornea. Esempio facile facile. Sì, guardiamo il quadrante dell'orologio, il vetro che abbiamo davanti è la cornea, il quadrante è l'iride. Sì. Se avessimo un buco, dietro il quadrante ci sarebbe il cristallino. E noi andiamo a parlare di cristallino, di questa lente che è piccola lente. Un centimetro. Che con gli anni tende ad opacizzarsi, almeno sembra così, ma è inevitabile. In linea con noi abbiamo il dottor Alessandro Galan. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti. Direttore dell'oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Dottore, l'intervento per la cataratta è uno, direi forse il primo come numero degli interventi più eseguiti al mondo. Sicuramente nel tempo ci sono stati dei miglioramenti, abbiamo guadagnato in sicurezza. Quali buone notizie ci porta, dottor Galan? Ma le buone notizie sono proprio quelle inerenti al fatto che la cataratta è un intervento diffusissimo, sì. Quindi tutti sono sempre pronti a portare novità e a portare migliorie. E naturalmente la tecnologia, migliorando sempre di più, ci ha dato strumenti sempre più sofisticati che ci consentono di fare interventi di durata ridotta, con ambulatoriali, con microincisioni, attraverso cui non solo estraiamo la cataratta opaca, ma iniettiamo un cristallino trasparente che fa le veci del cristallino che si è opacizzato. Quindi siamo, direi, dottor Galan, siamo molto avanti, un intervento sicuro. È un intervento, direi, molto sicuro, ma è sempre un intervento che, pur se noi l'abbiamo semplificato molto, non è mai un intervento banale, quindi certo. L'indicazione deve essere precisissima. Vabbè. Galan, sono Scialdone, ciao. Senti, ciao. C'è anche come novità, cosa che sicuramente ormai c'è da qualche anno, i cristallini per vedere anche per vicino, giusto? Giustissimo, è una cosa che sta prendendo piede. Stiamo ancora selezionando con molta precisione i pazienti a cui può andare meglio, per non incorrere in certi piccoli effetti collaterali che sono perfettamente eliminabili se si sceglie bene il paziente. Però è una tecnologia normalmente disponibile. È disponibile. Sì. E c'è una relazione, saltando, visto che parliamo di glaucoma, Ma c'è una relazione tra cataratta e glaucoma? Sembra proprio di sì. In ogni caso, operando la cataratta si assiste a un miglioramento della pressione dell'occhio per almeno un paio d'anni, questo è accertato. E in certe cataratte che sono magari diventate molto grandi, questo fenomeno è molto più duraturo. Ah, quindi negli ipermetropi, per esempio. Perfetto, quelli proprio i casi che citavi tu prima. Dottor Galan, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Noi continuiamo perché arriviamo alla retina, la parte nobile del nostro occhio. L'ultima frontiera. L'ultima frontiera. Abbiamo naturalmente il dottor Scialdone in studio, abbiamo in linea il professor Ugo Menchini. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore del Dipartimento Organo di Senso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze. E siamo ritornati insieme, giornata mondiale della vista, oggi ci occupiamo nel modo specifico in particolare del glaucoma, un ladro silenzioso, una malattia oculare che all'inizio al suo esordio non dà sintomi ma che è irreversibile e se non diagnosticata per tempo porta poi alla cecità. Ma proprio oggi abbiamo voluto sottolineare quali sono stati i progressi nella cura delle malattie oculari, abbiamo fatto un viaggio attraverso l'anatomia del nostro occhio, siamo arrivati alla retina, in linea con noi abbiamo il professor Ugo Menchini. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, buone notizie. Innanzitutto io volevo chiederle quali sono i segnali di una retina sofferente o di una retina malata, così da casa possono, tante volte non ci pensiamo, diamo poco peso a dei piccoli disturbi, magari sono invece quelli che potrebbero fare la differenza. Professore. Per quanto riguarda la degenerazione maculare legata all'età, il primo segnale è la deformazione delle immagini, sì. Ed è la cosa che più si evidenzia all'inizio. Poi c'è l'abbassamento di vista, ma molto spesso l'inizio è con la deformazione delle linee rette. Noi sentiamo degenerazione maculare legata all'età, quindi è una malattia che si manifesta necessariamente nel tempo, nelle persone anziane, o può arrivare anche in età non sospette? No, può arrivare anche precedentemente, però legato ad altre patologie, ad esempio alla miopia patologica o altre forme ereditarie come le maculopatie eredofamiliari. Però quella legata all'età, diciamo, caratteristica dell'età di sopra dei 60 anni, è la maggior causa di cecità legale, che non è cecità assoluta, nel mondo industrializzato. Professor Menchini, rispetto al passato, quali terapie oggi avete a disposizione per curare o limitare la progressione di questa malattia? La cosa è molto stimolante perché negli ultimi 10 anni sono fatti dei grossissimi progressi. Prima avevamo solo il laser con il quale potevamo trattare il 20% delle maculopatie legate all'età, con un risultato buono nel 10%, quindi sì, era una cosa abbastanza limitata. Ancora lo usiamo in casi del tutto particolari. Sì. Poi abbiamo avuto la fotodinamica, con la quale è stato possibile trattare altre forme con una maggiore efficacia. Attualmente abbiamo una progressione tecnologica importantissima, che è costituita per ora dagli farmaci che inibiscono lo stimolo a crearsi di questi vasi che tanto danneggiano la retina. Quindi progressi, dietro l'angolo c'è qualcosa, professor Menchini? Diciamo che attualmente noi, per bloccare l'evoluzione della malattia, e lo otteniamo in 90% dei casi, per bloccare l'evoluzione della malattia utilizziamo delle iniezioni dentro l'occhio di queste sostanze che bloccano la formazione di questi vasi che appunto danneggiano la retina. In futuro è prevedibile che ci siano altre sostanze che agiscono sempre contro i vasi neoformati, questi vasi che si formano senza doverci essere, e che possa essere utilizzata una via di somministrazione un po' meno invasiva di quella dell'iniezione intraoculare. Professor Menchini, grazie per essere stato con noi e soprattutto per questi aggiornamenti. Le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. E noi continuiamo, adesso entriamo proprio nel merito, parliamo di glaucoma, abbiamo già raccolto numerose indicazioni, informazioni su questa malattia, abbiamo capito quali sono le persone più a rischio. Professore, lei ha detto i miopi. Certo. I miopi diciamo medio elevati, gli ipermetropi. Molti sms al 349-238-6666 mi scrivono di ho corretto la miopia con il laser, rischio ugualmente il glaucoma oppure dunque, una volta tolto questa sorta di fattore di rischio, certo, anche se chirurgicamente sono comunque esposto. Allora, se io dico che correggere la miopia con laser è come avere una lente a contatto permanente sull'occhio, non è che se mi metto la lente a contatto non ho più il glaucoma. Il correggere la miopia è solo un fattore di occhiale, ma la struttura dell'occhio, la mia struttura genetica, rimane uguale. Allora, io volevo presentarvi Giovanni, che è in linea con noi. Giovanni, ciao. Buongiorno. Benvenuto. E Giovanni è affetto da glaucoma e proprio il glaucoma gli ha rubato la vista. E qua per raccontarci una sua storia che deve un po' spingere Giovanni, le persone in ascolto, ad occuparsi della propria vista, ma vuole essere anche un esempio luminoso, rassicurante, positivo per chi magari la vista la sta perdendo a causa di una malattia, di un incidente, perché la tua storia, Giovanni, è veramente una storia, direi, bella, positiva, che invita alla speranza. Giovanni, tu ti sei ammalato di glaucoma e hai perso la vista circa? Io ho iniziato a 23 anni col distacco di retina, poi la casualità ha voluto che mi si formasse anche glaucoma a 33-35 anni, ho perso la vista completamente per causa del glaucoma. L'hai persa progressivamente, vero Giovanni? Sì, sì. E questa, tu attualmente fai il restauratore di mobili, vero? Sì, lavoro in un laboratorio di restauro mobili, mi sono riciclato. Ti sei riciclato? Ovviamente trovarsi a perdere la vista a una certa età implica una certa rinascita, diciamo, perché si rimane a 35 anni, però si deve rinascere, ci si deve rimettere in gioco, trovare nuove forze, nuovi piaceri, facendo magari le stesse cose, però in maniera diversa, per cui anche i piaceri sono diversi, possono anche essere maggiori. Senti, dottor Cialdone, vuole intervenire? Direi che la storia di Giacomo è, da un certo punto di vista, Giovanni. Sicuramente... Giovanni, è sicuramente stimolante nella giornata giusta, diciamo, come sì, memento non terrorizzante, ma invitante a essere più attenti. E da un'altra parte è certamente un modo di comunicare che la speranza non deve essere mai morta, è il modo di trovare dentro di sé, cosa che spesso c'è, altre vie che normalmente non esploriamo. Giovanni, leggendo la tua storia, sentendola raccontare, si può anche leggere, perché è raccolta nel libro di Mauro Marcantoni, I ciechi non sognano il buio, edito da Franco Angeli, si scoprono delle storie che a noi insegnano molto. Ne abbiamo parlato tante volte con l'avvocato Castronovo, non vedente, dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Insomma, le persone che vivono al buio diventano degli esempi luminosi. Giovanni. Sì, è vero. Allora, per noi la nostra è un'esperienza, anche la perdita della vista in teoria dovrebbe essere un'esperienza, che però a noi non serve a nulla perché non possiamo tornare indietro, per cui tutto quello che abbiamo imparato non lo possiamo mettere a frutto sotto un certo aspetto. Sì. Nello stesso tempo non possiamo neanche passarla agli altri, a chi l'uso della vista ce l'ha, perché giustamente l'uomo finché non ci mette il naso non ci crede. Sì. Per cui l'unica cosa che ci rimane è poter dare l'esempio, è poter comunque anche in questa giornata stimolare le persone a dire non sottovalutate il problema, perché è vero che senza la vista si può vivere e si vive decorosamente, dignitosamente bene, però con la vista si potrebbe vivere meglio. Certo, certo. Per cui se avendo le possibilità che abbiamo al giorno d'oggi andrebbe... È da sciocchi non poterle sfruttare, non approfittarne. È sciocco non approfittarne, dice Giovanni. Sì. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi, dato la tra l'altro, Giovanni, per fino al secondo giovedì di novembre, quindi per un mese a partire da oggi, racconteremo proprio le storie, chiameremo alcuni dei protagonisti, delle persone che sono descritte nel libro di Mauro Marcantoni, a raccontarci in chiusura di trasmissione al giovedì la loro esperienza, per smuoverci un po' da quella sorta di apatia del fatto che sia tutto scontato, che tante volte ci intrappola. Giovanni, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Noi abbiamo Vincenzo da Bologna, Mario da Verona, li sentiamo subito dopo le informazioni sul traffico, 824 0024. Adesso tutte le vostre domande, i vostri messaggi sul glaucoma, il dottor Scialdone è qua pronto a rispondere alle vostre domande, a dare delle indicazioni e anche a tranquillizzare, perché... questo bisogna fare. Non è che... Certo, siamo qua apposta. Siamo qua, insieme a noi c'è anche Mario, ci chiama da Verona, 824 0024. Mario, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti, buongiorno, per la sua domanda, anzi soprattutto è pronto il professor Scialdone. Sì, io ho 55 anni, mio padre ha avuto un glaucoma circa 20 anni fa e tuttora prende le gocce regolarmente e sta bene, insomma. Mm. Io ho fatto delle visite, diciamo, ancora all'epoca, poi l'ho fatta l'ultima 4-5 anni fa, non mi hanno trovato niente. Mario chiede se deve stare tranquillo o no, vero Mario? No, io le volevo dire, cioè io ad esempio ho tutti i valori, pressione, sangue, tutto regolare, faccio attività sportiva, eccetera. Volevo sapere con quanta regolarità dovrei fare questi controlli. Mario, grazie. Professore. Beh, il fatto che abbia fatto già un paio di controlli, suppongo a distanza di un anno o due l'uno dall'altro, è abbastanza tranquillizzante. Man mano che si va avanti con gli anni, la probabilità, avanti nell'età, la probabilità si riduce leggermente, quindi può anche allungare i periodi fra un anno e un altro, non è che si può campare tutta la vita con la spada di Damocle, quindi se i primi 2-3 anni sono così, poi dopo allunga un anno sì, un anno no, eccetera. Mi verrebbe una domanda sulla pressione arteriosa e pressione oculare, ma prima naturalmente cedo il passo a Vincenzo che ci chiama da Bologna, 824 0024. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Le chiederei buongiorno di essere rapido nella domanda perché abbiamo un po' di ascoltatori in attesa. Grazie Vincenzo per la collaborazione. Certo, buongiorno a tutti. Io ho fatto casualmente 2 anni fa una visita, mi hanno trovato la pressione leggermente alta, sto prendendo le gocce, subito rientrata, tutto a posto. L'unica cosa che volevo sapere, ho letto su una rivista che per chi ha la pressione alta si può fare un intervento che si evita quindi di doversi dare le gocce per tutta la vita. Non so quanto sia vero attendibile questa cosa, volevo solo sapere appunto se c'è qualcosa di vero. Grazie a lei. Di chiarire, grazie della domanda. Dunque, intervento chirurgico nel senso vero e proprio del termine oggi si fa solo quando i colliri non sono sufficienti, quindi è una seconda, in seconda battuta, e quindi sono la minoranza dei casi. Forse sulla rivista può essere stato chiamato intervento un trattamento laser, che non è una cosa invasiva. Il trattamento laser, come diciamo, considerabile come se fosse un collirio in più, una mano in più, per cui se si mettono già dei colliri, in una parte dei casi può essere in grado di, almeno per un certo numero di anni, di ridurre il numero di colliri, o nei casi più fortunati addirittura di eliminarlo. Non è però un modo al 100% di trattare glaucoma, diciamo che è un fattore in più di terapia da tenere presente. Adesso tra poco parleremo di ricerca, perché è già qua in linea con noi il professor Alberto Auricchio. Professore, buongiorno. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, salve. Associato di genetica medica all'Università Federico II di Napoli e ricercatore presso il TIGEM di Napoli. Professore, sono subito da lei, ma volevo chiedere prima al professor Scialdone. Sappiamo che lo stile di vita ha un peso sulla pressione arteriosa. C'è uno stile di vita che in qualche modo abbassa questa pressione oculare, la tiene sotto controllo, o insomma, certo, ci fa bene? Certo. Gli sport dinamici. Quindi corsa? Corsa, bicicletta, alzo pesi, no. Quindi mettere in moto la circolazione riduce la pressione, e anche, purtroppo, come al solito, il fumo peggiora la probabilità di controllo della pressione. Insieme al professor Auricchio, l'avevamo già fatto qualche tempo fa, in occasione proprio dei dati pubblicati di un intervento che era stato eseguito, ma parliamo di terapia genica, dell'impiego della terapia genica per le malattie oculari. Professore, verso quali malattie state indirizzando la terapia genica? State utilizzando la terapia genica? La terapia genica si può utilizzare per molte malattie oculari. Quelle sulle quali il nostro istituto TIGEM a Napoli si sta focalizzando sono malattie ereditarie, sì, che portano a cecità, come sì, per esempio la amaurosi congenita di Leber, che è una malattia, è una grave forma di cecità congenita nella maggior parte dei casi, o che comunque porta a cecità nei primi anni di vita. E infatti proprio qualche mese fa lei ai nostri microfoni ci ha descritto questo risultato molto incoraggiante per la amaurosi congenita di Leber. Esatto, in collaborazione praticamente con il Dipartimento di Oculistica della Seconda Università di Napoli, abbiamo prima di tutto identificato dei pazienti affetti da questa malattia e con la mutazione in un gene specifico che si chiama RPE65, perché come ho detto questa è una malattia ereditaria. Sì. E poi abbiamo praticamente costruito un vettore, questo in collaborazione con un gruppo negli Stati Uniti all'Università della Pennsylvania a Filadelfia, abbiamo costruito un vettore che trasporta una copia corretta di questo gene RPE65 e attraverso una procedura chirurgica l'abbiamo introdotto nella retina di alcuni pazienti italiani, sì, e abbiamo poi seguito il decorso della malattia, sì, e abbiamo assistito praticamente alla comparsa di alcuni segni di ripresa di funzionalità visiva in questi pazienti, che è un risultato, questa è la prima sperimentazione clinica di questo tipo fatta al mondo ed è un risultato appunto estremamente promettente. E professore, risultati come quelli ottenuti dalle vostre ricerche orientati nel trattamento delle malattie rare, quindi malattie dei piccoli numeri, hanno importanti ricadute. Chiudiamo con questo messaggio, cioè intervenite su delle malattie che forse interessano poche persone, ma se riuscite a trovare la chiave giusta, questo può essere utilizzata per curare malattie di più grandi numeri. Professore. È proprio così, la malattia in questione, l'amaurosi congenita di Leber, rispetto ad altre malattie come il glaucoma o la degenerazione maculare senile che pure colpiscono la retina, è una malattia molto rara, però poter dimostrare quella che noi chiamiamo la prova di principio, che una strategia come la terapia genica possa funzionare in pazienti con amaurosi congenita di Leber, ci apre poi le strade per poter testare questa stessa strategia per malattie appunto molto più frequenti, quindi sono importanti, quindi banchi di prova, ecco. Ringrazio il professor Auricchio, dottor Scialdone. Grazie professore, grazie al dottor Scialdone. Vi ricordo il numero della IAPB 800 06 8506 e vi ricordo anche un sito, di visitare il sito della CBM, un'associazione di riferimento per la prevenzione della cecità e delle patologie visive nei paesi in via di sviluppo, che quest'anno compie 100 anni. Per oggi è davvero tutto, vi salutiamo, vi aspettiamo domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carboni. Bye.